البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا. Buongiorno Palestina. 137esima trasmissione su Radio Wombat. Libera Noha e altri 3 ostaggi israeliani. Liberati con la forza e non con le trattative. Un successo per il macellaio di Israele, Netanyahu e company. Per la loro liberazione gli israeliani, con l'aiuto degli USA, hanno bombardato un intero quartiere, hanno ammazzato oltre 200 persone e ne hanno ferite oltre 500. Molti di loro resteranno invalidi a vita. Ma quanto vale invece la vita dei palestinesi? La loro vita non conta niente e comunque meno di un efficace spot pro Netanyahu. Per ora gli unici ostaggi israeliani morti li hanno uccisi gli israeliani stessi, per errore o sotto le loro bombe. I prigionieri palestinesi invece, fra cui diversi medici, restano in carcere dove subiscono torture e percosse. Nessuno andrà a liberarli con un sanguinoso e spettacolare blitz. Nessuno ne chiede neppure la liberazione. In molti sono deceduti e altri moriranno in carcere. E dell'oppressione nelle carceri israeliane ce ne parla Sara oggi in un approfondimento, subito dopo la rassegna stampa. Ma veniamo a noi. Nell'ultima settimana di campagna elettorale, per le elezioni delle europee, i candidati sono stati tallonati dagli attivisti sul tema della Palestina con una serie di interventi di cui ne vogliamo ricordare alcuni. Mercoledì 29 maggio al seminario itinerante sulla Palestina presso l'Università di Firenze. Il 30 maggio alla Sala Rossa del Palacongressi all'evento della Nazione ci sono stati interventi in sala e volantinaggio della lettera aperta ai candidati sindaco. Il 1 giugno, interventi in sala alla presentazione del bilancio del Meyer. Il 2 giugno, manifestazione e corteo fino al consolato USA. Il 3 giugno, un intervento al conventino. E il 6, ben 3 eventi. Bandiere palestinesi all'isolotto per la conclusione della campagna del Partito Democratico e flash mob alla sede della Nazione. Un terzo evento con lo strillonaggio di finte edizioni di giornali mainstream, La Stampa che vorremmo, giornali quali La Nazione, Il Corriere della Sera e La Repubblica. Il 7 giugno il flash mob alla COP di Ponte a Greve per contrastare la vendita dei prodotti made in Israel. Nella stessa settimana preelettorale grande interesse ha suscitato l'incontro con Jeremy Milgrom, rabbino israeliano antisionista, che contattato attraverso l'organizzazione milanese Vento di Terra di Nandino Capovilla ha partecipato alle piagge ad un vivace incontro sulla situazione in Palestina e Israele. In quell'occasione abbiamo realizzato una sua intervista. E in questa trasmissione riportiamo inoltre l'intervista di un altro israeliano antisionista che è venuto in Italia a Firenze e con lui abbiamo realizzato un evento al Circolo dei Lavoratori in Via delle Porte Nuove. Si tratta di Yeli Chalik, giovane obiettore israeliano e coordinatore di Mesarvot, organizzazione che dà assistenza agli obiettori al servizio militare israeliano. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e l'approfondimento di Sara. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la rassegna stampa di oggi con un articolo pubblicato su Al-Mayadin dal titolo «Le forze statunitensi hanno aiutato Israele a recuperare 4 prigionieri a Gaza», nel quale si riporta quanto dichiarato da fonti israeliane e statunitensi al New York Times, e cioè del coinvolgimento degli Stati Uniti nell'operazione che ha portato al recupero dei 4 ostaggi israeliani liberati pochi giorni fa e che ha comportato l'ennesimo massacro di più di 210 civili palestinesi e il ferimento di altri 400. Un alto funzionario israeliano ha detto al New York Times che gli Stati Uniti e il Regno Unito sono una presenza fissa a Gaza che assiste l'intelligence israeliana nella raccolta di informazioni sui prigionieri, alcuni dei quali sono cittadini di entrambi i paesi. Questo ennesimo massacro è seguito a pochi giorni di distanza da un altro, sempre avvenuto nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza, che ha visto l'uccisione di 40 civili palestinesi che si erano rifugiati nella scuola del campo gestita dall'UNRWA, come riportato nell'articolo pubblicato su Infopal dal titolo Genocidio israelo-statunitense a Gaza, 244esimo giorno, scuola dell'UNRWA bombardata, decine di morti. Bilancio 36.586 morti accertati e 83.074 feriti. A proposito di scuola e sistema di istruzione, vi segnalo l'articolo pubblicato sul Guardian dal titolo Israele ha distrutto o danneggiato l'80% delle scuole di Gaza. Questo è lo scolasticidio. Secondo l'ONU, questa è la percentuale di scuole distrutte a Gaza dal 7 ottobre. Ciò equivale a scolasticidio, che da distruzione sistematica dell'istruzione palestinese è passato all'annientamento totale dell'istruzione. Basti pensare che nei primi 100 giorni di questa guerra tutte le 12 università di Gaza sono state distrutte e insieme a loro sono state distrutte biblioteche, archivi, musei, librerie e monumenti. Attraverso la distruzione fisica delle infrastrutture educative e culturali, lo scolasticidio cancella i mezzi attraverso i quali un gruppo, in questo caso i palestinesi, può sostenere e trasmettere la propria cultura, conoscenza, storia, memoria, identità e valori attraverso il tempo e lo spazio. E questa è proprio una caratteristica fondamentale del genocidio. Veniamo all'ultimo articolo pubblicato su Infopal dal titolo L'ONU inserisce Israele nella lista nera delle organizzazioni terroristiche. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha informato l'addetto alla difesa israeliano negli Stati Uniti, il maggiore generale Hidai Zilberman, della sua decisione di includere finalmente Israele nella lista nera dei paesi e delle organizzazioni che danneggiano i bambini nelle zone del conflitto. Questo elenco include anche gruppi come ISIS, Al-Qaeda e Boko Haram. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Ora un breve intervallo musicale. State ascoltando Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Dopo l'intervallo riprenderemo con l'approfondimento di Sara sul sistema di oppressione israeliano nelle carceri. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani. partiranno Giordano traditore. Il prossimo articolo ha il titolo Il genocidio nelle carceri israeliane di Qassam Muaddi, uscito il 7 giugno su Mondways. In questo articolo l'autore porta una riflessione, un approfondimento sulla politica carceraria di Israele, alla luce anche di recenti inchieste. La politica carceraria dello Stato di Israele è sempre stata uno dei pilastri del sistema di oppressione operato a danno della popolazione palestinese in tutto il territorio della Palestina. E nell'articolo l'autore sostiene che la guerra genocida compiuta da Israele si sia estesa oltre le sbarre delle prigioni israeliane, all'interno delle quali sono imposte delle condizioni di vita assolutamente disumane e degradanti per i palestinesi fatti prigionieri. Si tratta di trattamenti disumani e degradanti che sono sempre stati all'ordine del giorno, così come è da anni riportato da organizzazioni per i diritti umani, sia internazionali che palestinesi, fra cui Ad-Damir, l'associazione che sostiene i diritti dei prigionieri politici palestinesi, e naturalmente, come è sempre stato raccontato dalle testimonianze dirette dei palestinesi vittime di torture e abusi nelle prigioni. Dal 7 di ottobre le condizioni dei prigionieri sono diventate, se possibile, ancora più insostenibili. Israele ha sospeso le visite familiari, ha introdotto nuove regole sulla chiusura delle celle, ha imposto ulteriori restrizioni sulla distribuzione di acqua e di cibo, ha dato mano libera alle guardie nella scelta della loro condotta verso i detenuti. Dopo il 7 ottobre il numero dei palestinesi nelle carceri israeliane è più o meno raddoppiato e infatti Israele ha compiuto solo a Gerusalemme e in Cisgiordania più di 8.800 arresti dall'8 di ottobre a inizio giugno di quest'anno, fra cui almeno 610 minori e 290 donne. In questo momento dietro le sbarre ci sono 9.300 palestinesi, secondo i dati di Ad-Damir. Di questi 250 sono minori e 3.400 sono in detenzione amministrativa, che significa che sono senza accuse né processo. Quindi sembra che Israele abbia negli ultimi 8 mesi dato avvio ad una nuova fase della sua onnipresente campagna di detenzione, mettendo a disposizione tutti gli strumenti criminali in suo possesso, quindi ogni forma di umiliazione possibile, violenza psicologica sulle famiglie, distruzione delle abitazioni delle persone che vengono imprigionate, pestaggi e torture durante e in seguito all'arresto e esecuzioni arbitrarie. Secondo sempre Ad-Damir, sono 18 i palestinesi che sono stati detenuti in Cisgiordania, dalla Cisgiordania e da Gerusalemme, e che sono stati uccisi dentro le carceri o durante l'arresto. Questo dato si arriva fino all'8 di maggio scorso. A Gaza la campagna genocidiaria è fatta anche di campagne detentive, campagne che sono dal 7 di ottobre assolutamente senza precedenti, che colpiscono la popolazione civile. Si tratta di persone che vengono detenute sia dentro la striscia oppure portate nei centri di prigionia in Cisgiordania e nel deserto del Naqab. Il numero dei palestinesi scomparsi aumenta di giorno in giorno, di moltissimi non si ha più notizia. Chi viene rilasciato riporta la propria testimonianza di fronte alle telecamere dei giornalisti e racconta di trattamenti disumani e degradanti, di una violenza inaudita. Oltre ai report degli ultimi mesi in cui possiamo fare affidamento, quello delle Nazioni Unite di febbraio, quello di Physicians for Human Rights Israel, sempre di febbraio, è uscita lo scorso mese, a metà maggio, una recente inchiesta, stavolta di una testata mainstream come CNN, che raccoglie le parole di alcuni informatori sulle violenze e sulle violazioni che avvengono in un centro di detenzione, in particolare ex base militare chiamato Sdeh Tayman, nel deserto del Naqab. Si tratta, l'inchiesta raccoglie una serie di pratiche medievali usate sui corpi dei detenuti palestinesi, fra cui l'essere sottoposti a operazioni chirurgiche e amputazioni rudimentali, essere legati ai letti e bendati, essere attaccati dai cani, essere picchiati costantemente o essere costretti a assumere delle posizioni di enorme stress. Il 6 giugno, 3 settimane dopo, esce un'altra inchiesta, stavolta del New York Times, dal titolo «Dentro la base dove Israele ha detenuto migliaia di Gazawi», che è basata su interviste a ex detenuti palestinesi, soldati israeliani e i così chiamati dottori che operano là dentro e che hanno contribuito a infliggere enormi sofferenze sui palestinesi fatti prigionieri. Secondo la storia del New York Times, a Sdeh Tayman sono stati imprigionati circa 4.000 palestinesi di Gaza. Di questi, 1.200 sono stati rilasciati e riportati nella striscia. L'inchiesta porta alla luce incredibili orrori testimoniati dagli ex prigionieri, fra cui inquietanti resoconti su violenze e abusi sessuali che hanno portato alla morte alcuni dei detenuti. Tutto questo per dire che il sistema carcerario che Israele ha messo in piedi è disegnato non solo per detenere, per umiliare e per torturare, ma anche e soprattutto per condurre i detenuti alla morte, più o meno lentamente. È perciò esso stesso un sistema genocidiario, come tutto l'impianto israeliano, cioè teso all'eliminazione della popolazione indigena palestinese. A marzo le forze di occupazione hanno annunciato la morte, e quindi ammesso l'uccisione, di 27 palestinesi fatti prigionieri a Gaza e portati nei campi di prigionia, fra cui il già menzionato Sdeh Tayman. E secondo Ad-Damir sono 6 i martiri palestinesi che hanno perso la vita a seguito delle torture e del trattamento disumano e degradante dentro le prigioni, quelli di cui si hanno i nomi. E fra di loro c'è il primario di ortopedia dell'ospedale Al-Shifa, Adnan Al-Borsh, che è stato ucciso dall'esercito israeliano mentre si trovava in una delle prigioni, nella prigione di Ofer, nella città di Ramallah, dopo 4 mesi di detenzione. Ha perso la vita il 19 di aprile. State ascoltando Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ora un breve intervallo musicale. Dopo l'intervallo riprenderemo con l'intervista a Jeremy Milgram. لو مرة بس تخفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاحي لي بأرض الجفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بأغلى ممتلك كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي ماله من ضلوعك وانا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن اذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب طول مليك المعتدي يا دمع انا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت ضحى طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح لما الحزن بالعشق يجوز كيف الحزن بغلى وطول يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح ان وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب Giovedì 6 giugno alle piagge, grande interesse ha suscitato l'incontro con il rabbino israeliano Jeremy Milgrom. Jeremy è stato tempestato di domande sulla situazione in Israele e Palestina, situazione che ha descritto assai diversa da quella a cui pensava quando 33 anni fa era emigrato, adolescente, con la sua famiglia dallo stato di Virginia negli Stati Uniti, verso Israele, dove compì i suoi studi. Nella medesima occasione, Alessandro Santoro ha dato qualche anticipazione su un progetto laboratorio sul quale stanno già lavorando alle piagge e che si avvierà a settembre e del quale farà parte anche il rabbino Jeremy Milgrom. Nella breve intervista che riportiamo, Jeremy offre anche solo per brevi cenni un quadro assai problematico della situazione dei gruppi di opposizione israeliani. Ascoltiamo Jeremy. Siamo alle piagge e dopo la conferenza di Jeremy ci rilascia una breve intervista. Jeremy, tu sei un rabbino, cioè una figura religiosa. Quello che ti chiedo è che tipo di ebraismo è quello per il quale tu sei rabbino? È ebraismo riformato, conservatore, ortodosso? E poi che cosa significa vivere in Israele per un rabbino come te? Well, I was ordained in the conservative movement. So that means it's not orthodox, it's not reform, it's something in the middle. It's traditional in many ways, and in some ways it's progressive. In Israel, I feel quite alone, quite lonely in my religious life. Io sono stato ordinato rabbino nel movimento conservatore. Questo significa che non si tratta dell'ebraismo ortodosso né di quello riformato. Sta piuttosto nel mezzo, tradizionale per molti aspetti e anche progressista per certi versi. Per quanto riguarda il mio modo di vivere, in Israele mi sento abbastanza solo nella mia vita religiosa. Sono gratificato e contento che ci sia un numero crescente di rabbini non sionisti in America e sono in contatto con loro su internet e attraverso i social media. Questo perché in Israele fondamentalmente l'intero establishment religioso è nazionalista. Anche gli Haredim ultraortodossi si sono allineati con l'ala destra, con la xenofobia e col sentimento anti-arabo. In quale ambiente e con quali gruppi lavori tu? Well, I have been a member of many groups, and in those groups I felt the support and the camaraderie, but right now I'm not in a group. I mean, I have been, I was one of the founders of Rabbis for Human Rights. That was 30, how many years ago? 88. That adds up to... Ho fatto parte 30, di molti gruppi, years. E da quei gruppi ho ricevuto sostegno e amicizia. Years. Ma in questo momento non faccio parte di un gruppo specifico. Voglio dire, sono stato uno dei fondatori del gruppo Rabbini per i diritti umani, Rabbis for Human Rights. Questo è avvenuto circa 36 anni fa. ho fatto parte anche di Rabbini per i diritti umani, ma in questo momento mi trovo in disaccordo con il gruppo, perché Rabbini per i diritti umani è molto cauto su certi argomenti e si sono andati via via allineando all'opinione mainstream molto più di me. Essere un rabbino comporta un impegno a tempo pieno o svolgi anche altre attività? Okay, so first I'll say that being a rabbi is a degree. It gives you, it's a qualification that you can then use in certain jobs. I'm not the rabbi of a community. I never was, well, just for short amounts of time. I was generally a teacher and someone who worked for human rights and interfaith dialogue. Prima di tutto occorre dire cosa è essere un rabbino. È un titolo che ti viene conferito solennemente dopo un corso di studi. È una qualifica che puoi utilizzare per alcuni lavori. Io non sono il rabbino di una comunità, non lo sono mai stato, ad eccezione di un brevissimo periodo. Ho fatto l'insegnante, ma soprattutto ho lavorato per i diritti umani e per il dialogo interreligioso in diversi contesti. E la tua vita prima e dopo il 7 ottobre, cosa è cambiato con il 7 ottobre? I would say it hasn't changed. I think that before October 7th I was totally against the occupation. I felt great sympathy for the people in Gaza who were denied their freedoms. And I think since October 7th I've been shocked by how much disregard there was and still is in Israel for the suffering that we've imposed on Palestinians. I couldn't believe that Israelis would allow the army to deny food and water to Palestinians. I couldn't believe that. Ma direi che non è cambiato nulla, penso. Prima del 7 ottobre ero già totalmente contrario all'occupazione. Mi sono sempre sentito molto vicino agli abitanti di Gaza a cui è stata negata la libertà. Riguardo al 7 ottobre sono rimasto colpito da quanto disprezzo c'era e c'è ancora in Israele nei confronti delle sofferenze che abbiamo imposto ai palestinesi. Io non avrei mai creduto che gli israeliani avrebbero permesso all'esercito di negare cibo e acqua ai palestinesi. Non potevo crederci. Non potevo credere che l'esercito torturasse i prigionieri come sta facendo. Conosco uno dei prigionieri che è stato torturato. Non viene da Gaza, viene dalla Cisgiordania. Viene da una famiglia che conosco da molti anni, alla quale sono legato da un grande affetto ed ammirazione. Non credevo davvero che saremmo potuti scendere a un tal grado di brutalità e questo mi ha fatto cadere ogni illusione. Non pensavo che questo tipo di comportamento, cioè la tortura, potesse essere ammesso da parte del governo, dell'esercito o compiuto da parte del governo tramite l'esercito. E tutto ciò è qualcosa di molto pesante per me. Ritieni che la tua vita, la tua esistenza, la vita della tua famiglia sia in pericolo o ricevi minacce per via della tua attività? No, I don't. I'm a coward. I don't go out and provoke violence myself. I don't block roads and then, you know, expect to be trampled by horses or by some, you know, stink skunk liquid or something. I shy away from that. I'm not interested in being arrested either. In that sense, I'm not a martyr, and I'm a small fry. I'm not. Ma direi di no. Io sono una persona paurosa. Non sono uno che esce anima partecipazione violente. Non partecipo a blocchi stradali. Magari poi a rischio di venire calpestato dai cavalli o dalla folla, di venire bersagliato dai idranti di liquido puzzolente o altro. Io queste cose le rifuggo e nemmeno mi piacerebbe venire arrestato. Insomma, non cerco di fare il martire e poi sono un pesce piccolo, non sono qualcuno che il governo sorveglia da vicino. Anche se potrebbe, no, non credo che la mia famiglia corra alcun rischio. Tu ti coordini in qualche modo con rabbini per i diritti umani? Vi organizzate voi in qualche maniera? No, Rabbis for Human Rights is flourishing. I think that should be clear. It's doing more than ever before. It's got more members. It's getting good publicity. My problem with Rabbis for Human Rights is that it has not championed the human rights of the Palestinians as it should. It has not Non opposed. proprio, il movimento dei rabbini per i diritti umani è in crescita, è più che mai attivo, aumenta i suoi attivisti, ha una buona immagine. Il mio problema con loro è che non hanno difeso i diritti umani dei palestinesi come avrebbero dovuto. Non si sono opposti alla violenza che l'esercito ha inflitto ai palestinesi. Trovano difficile criticare l'esercito, preferiscono prendersela contro l'illegalità dei giovani delle colline, cioè quelli che compiono azioni squadristiche contro i contadini palestinesi o contro il comportamento scorretto dei coloni, ma non si occupano del comportamento e le crudeltà dei soldati. Sei in contatto o in coordinamento con altri gruppi, non gruppi religiosi, ma diciamo gruppi di sinistra in Israele? Yes, absolutely. And this is one of the functions of social media is that I have my community is online. I don't see them enough in person, but I am in touch with in correspondence and Facebook and things like that. Sì, assolutamente. Questa è l'utilità dei social media di cui mi servo. Di fatto, la mia comunità è quella che ho online, Mesar Vuot e gli altri. Io non li vedo tanto di persona, ma sono in contatto attraverso la corrispondenza, Facebook e altri strumenti online. Ho una grande ammirazione per Roth, che è stato segretario di Human Rights Watch. Si tratta di organizzazioni che cercano di parlare della Nakba e di sostenere le persone che si rifiutano di prestare servizio militare. Un'ultima domanda, quanti anni avevi quando hai deciso di diventare rabbino? I think I decided to be a rabbi when I was about 25, 26, Penso di aver deciso di diventare rabbino quando avevo sui 25-26 anni. 25. E i tuoi studi in che cosa sono consistiti? I studied Jewish studies. I love the culture, the culture of the Torah and the oral Torah and Jewish literature, yes. Ho fatto studi ebraici, io amo la cultura della Torah e della Torah orale e della letteratura ebraica. Thank you very much. Grazie, Jeremy. State ascoltando Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ora un breve intervallo musicale. Dopo l'intervallo riprendiamo con l'intervista a Yaeli Chalik. In 1948, the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and cities shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh, Palestine, oh, Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh, Palestine, your people live in fear. We demand emancipation from the river to the sea. In 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. O Palestine, O Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. O Palestine, O Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. Yaheli Chalik è un giovane israeliano, 24enne, obiettore e coordinatore di Mesarvot, l'organizzazione israeliana che assiste gli obiettori al servizio militare. Yaheli è intervenuto al Circolo dei Lavoratori di Porta Prato in una affollata assemblea dove è stato tempestato di domande. Nell'intervista che segue ci limitiamo all'aspetto più delicato che lo riguarda, e cioè quello del suo percorso personale che lo ha portato alla difficile scelta dell'obiezione al servizio militare, cosa che in Israele è considerata una impietà. Yaheli, la tua era una normale famiglia israeliana, quindi con la fede nell'esercito e la considerazione del servizio militare come un valore. Come è avvenuto per te il distacco da questi valori e quali problemi hai avuto con il tuo ambiente? You need to understand that it's like the society has like its own base assumptions, you know, its own like axioms. Yeah. And when you come and you realize the truth and you fight against those things that seem obvious to people, you are becoming an outsider. For some people you are becoming a traitor. Devi capire che è come se la società avesse i suoi presupposti di base, i propri assiomi. Poi ti rendi conto di come stanno le cose, realizzi qual è la verità. E a quel punto, se lotti contro queste cose che sembrano ovvie alle altre persone, diventi un outsider. Per alcune persone stai diventando un traditore. Una domanda, quanti anni avevi quando hai avuto questa idea di non fare il servizio militare o che il servizio militare era qualcosa a cui eri contrario? This was, like I said, it's a long process. Yeah, okay. It's a very long process that I went through, and it's slowly, and that slow one. When you grow up in this kind of society, which is has a lot of problems, like corruption and violence, and you know something is wrong, but because you're never taught, and you don't even have the vocabulary to express it, you don't really know what's going on, so it's very easy to fall into nihilism and say, okay, we'll just... Come ho detto, è stato un processo lungo. È un processo molto lungo quello che ho affrontato ed è lento, molto lento. Quando cresci in questo tipo di società che ha molti problemi come la corruzione, la violenza e ti rendi conto che le cose non vanno, ma nessuno te l'ha insegnato, ti trovi a non avere nemmeno il vocabolario, la terminologia, gli strumenti per esprimerti. Non ti rendi pienamente conto delle cose che succedono. E allora è molto facile cadere nel nichilismo e dire ok, farò solo la mia piccola parte nell'esercito e poi me ne andrò da questo paese, è una schifezza. L'ho capito davvero dopo aver finito un anno di università, quando ero uno studente soldato, ma era come se non avessi mai svolto ancora un vero lavoro militare. Avevo solo frequentato l'università e fatto la formazione di base. Quanti anni avevi allora? I was 19. Avevo 19 anni. E dicevi che alcune letture sono state importanti per te, Hannah Arendt in particolare, ma chi era il tuo riferimento, il tuo aiuto in questo processo? Hai qualche amico che ha vissuto la tua stessa esperienza? It was a very lonely process. No, per me è stato un processo molto solitario. Un processo solitario? Like for me, like what happened, I had after finishing the first year and doing basic training, I had a very hard time mentally. Per quanto riguarda me, quello che è successo è che dopo aver terminato il primo anno e aver fatto la formazione di base militare, ho avuto un periodo molto difficile a livello mentale. Ero molto depresso e non riuscivo più a studiare per svolgere i miei compiti universitari. Che tipo di studi stavi facendo? I was studying aerospace engineering. I got a scholarship from the military. Uh-huh. Like I said, at the beginning I did enlist to the military. At the beginning. So it's a part of the military service. For me, I was in a special program. I got a scholarship to study bachelor's and master's in aerospace engineering in the military. Studiavo ingegneria aerospaziale. Ho ottenuto una borsa di studio dall'esercito. Come ho detto, non ero di fatto arruolato nell'esercito, ero in un programma speciale. Ho ottenuto una borsa di studio per studiare e ottenere un master in ingegneria aerospaziale all'università. E poi, una volta completati i miei studi, avrei dovuto trascorrere 6 anni nell'esercito come ingegnere, progettando armi, aerei e cose del genere. Così ho fatto il mio primo anno. Successivamente ho fatto la formazione di base e durante il mio secondo anno ho avuto una brutta esperienza della quale non voglio proprio parlare e questo mi ha molto depresso. Scusa, ma che tipo di esperienza, di che tipo di esperienza si è trattato? Not something political, just I couldn't study, but suddenly I had a lot more time to think. And this gave me the space to really reflect on what kind of person I want to be and also the time to really get into reading history and radical politics and to develop a vocabulary. Sono stato aggredito a una festa, non qualcosa di politico. Solo poi non mi sentivo più in grado di studiare, ho avuto molto più tempo per riflettere, ho avuto modo di riflettere davvero su che tipo di persona voglio essere e anche tempo per dedicarmi davvero alla lettura della storia, della politica, per acquisire una terminologia, per sviluppare una comprensione del mondo. Ho letto anche libri anarchici, libri comunisti, storia e anche cose da Breaking the Silence, da Bethlehem e anche ovviamente Hannah Arendt. E lentamente attraverso tutte queste letture ho capito che quello che sta realmente accadendo nel mio paese è che è uno stato di apartheid. E tutto questo è stato un processo solitario? Driven all alone? Yes, only me and my computer. Sì, solo io e il mio computer. E chi sono state le prime altre persone con le tue stesse idee che hai incontrato? I went to a protest after I decided I don't go to the military anymore, after I quit university. I went to a protest and I met people from the Communist Youth Union. Mm-hmm. And that's where I found my community and also I started learning more. Oh, I see. And for me it's like now the community. Sono andato a una protesta dopo aver deciso di non andare più nell'esercito. Dopo aver lasciato l'università, sono andato a una protesta e ho incontrato persone dell'Unione della Gioventù Comunista. È lì che ho trovato la mia comunità e ho anche iniziato a imparare di più. Per me adesso è come se il Partito Comunista, l'Unione della Gioventù Comunista, fosse la mia seconda famiglia. Thank you very much. Grazie mille, Yeheli. State ascoltando Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ora un breve intervallo musicale. Dopo l'intervallo riprenderemo con l'appello del personale accademico e amministrativo dell'Università di Gaza al mondo. Thank you. dal 244 giorno di genocidio a Gaza, Israele ha distrutto o danneggiato l'80% delle scuole di Gaza. Allo scolasticidio perpetrato dallo Stato di Israele vogliamo rispondere dandovi lettura dell'appello promosso dal personale accademico e amministrativo delle università di Gaza verso il mondo. Troverete il link dell'appello con tutti i firmatari pubblicato dal manifesto sul blog della trasmissione di oggi. Lettera aperta del personale accademico e amministrativo delle università di Gaza al mondo. Ci siamo riuniti come accademici palestinesi e personale delle università di Gaza per affermare la nostra esistenza, quella dei nostri colleghi e dei nostri studenti, e l'insistenza sul nostro futuro di fronte a tutti gli attuali tentativi di cancellarci. Le forze di occupazione israeliane hanno demolito i nostri edifici, ma le nostre università continuano a vivere. Riaffermiamo la nostra determinazione collettiva a rimanere nella nostra terra e a riprendere l'insegnamento, lo studio e la ricerca a Gaza, nelle nostre università palestinesi, al più presto. Invitiamo i nostri amici e colleghi di tutto il mondo a resistere alla campagna di scolasticidio in corso nella Palestina occupata, a lavorare al nostro fianco nella ricostruzione delle nostre università demolite e a rifiutare tutti i piani che cercano di aggirare, cancellare o indebolire l'integrità delle nostre istituzioni accademiche. Il futuro dei nostri giovani a Gaza dipende da noi e dalla nostra capacità di rimanere nella nostra terra per continuare a servire le generazioni future del nostro popolo. Lanciamo questo appello da sotto le bombe delle forze di occupazione nella Gaza occupata, nei campi profughi di Rafah e dai luoghi di un nuovo esilio temporaneo in Egitto e in altri paesi ospitanti. La diffondiamo mentre l'occupazione israeliana continua a condurre quotidianamente la sua campagna genocidaria contro il nostro popolo, nel tentativo di eliminare ogni aspetto della nostra vita collettiva e individuale. Le nostre famiglie, i nostri colleghi e i nostri studenti sono stati assassinati, mentre noi siamo stati ancora una volta resi senza casa, rivivendo le esperienze dei nostri genitori e dei nostri nonni durante i massacri e le espulsioni di massa da parte delle forze armate sioniste nel 1947 e nel 1948. Le nostre infrastrutture civili, università, scuole, ospedali, biblioteche, musei e centri culturali costruite da generazioni del nostro popolo sono diventate rovine a causa di questa Nakba deliberata in corso. La deliberata presa di mira delle nostre infrastrutture educative è un tentativo evidente di rendere Gaza inabitabile e di erodere il tessuto intellettuale e culturale della nostra società. Tuttavia ci rifiutiamo di permettere che tali aspetti spengano la fiamma della conoscenza e della resilienza che arde in noi. Gli alleati dell'occupazione israeliana negli Stati Uniti e nel Regno Unito stanno aprendo un altro fronte scolastico, promuovendo presunti schemi di ricostruzione che cercano di eliminare la possibilità di una vita educativa palestinese indipendente a Gaza. Rifiutiamo tutti questi schemi e invitiamo i nostri colleghi a rifiutare qualsiasi complicità in essi. Esortiamo inoltre tutte le università e i colleghi di tutto il mondo a coordinare qualsiasi sforzo di aiuto accademico direttamente con le nostre università. Esprimiamo il nostro più sentito apprezzamento alle istituzioni nazionali e internazionali che sono state solidali con noi, fornendo sostegno e assistenza in questi momenti difficili. Sottolineiamo tuttavia l'importanza di coordinare questi sforzi per riaprire effettivamente le università palestinesi a Gaza. Sottolineiamo l'urgente necessità di riaprire le istituzioni scolastiche di Gaza non solo per sostenere gli studenti attuali, ma per garantire la resilienza e la sostenibilità a lungo termine del nostro sistema di istruzione superiore. L'istruzione non è solo un mezzo per impartire conoscenze, è un pilastro vitale della nostra esistenza, un faro di speranza per il popolo palestinese. Di conseguenza è essenziale formulare una strategia a lungo termine per riabilitare le infrastrutture e ricostruire le strutture delle università. Tuttavia, tali sforzi richiedono un tempo significativo e finanziamenti consistenti, mettendo a rischio la capacità delle istituzioni accademiche di sostenere le operazioni, con la potenziale perdita di personale, studenti e della capacità di operare nuovamente. Considerate le circostanze attuali, occorre passare rapidamente all'insegnamento online per mitigare le interruzioni causate dalla distruzione delle infrastrutture fisiche. Questa transizione richiede un sostegno completo per coprire i costi operativi, compresi gli stipendi del personale accademico. Le tasse studentesche, principale fonte di reddito per le università, sono crollate dall'inizio del genocidio. La mancanza di entrate ha lasciato il personale senza stipendio, spingendo molti a cercare opportunità esterne. Oltre a colpire il sostentamento dei docenti e del personale universitario, questa tensione finanziaria causata dalla deliberata campagna di scolasticidio rappresenta una minaccia esistenziale per il futuro delle università stesse. Pertanto è necessario adottare misure urgenti per affrontare la crisi finanziaria che le istituzioni accademiche stanno affrontando per garantire la loro stessa sopravvivenza. Chiediamo a tutte le parti interessate di coordinare immediatamente i loro sforzi a sostegno di questo obiettivo critico. La ricostruzione delle istituzioni accademiche di Gaza non è solo una questione di istruzione, è una testimonianza della nostra resilienza, della nostra determinazione e del nostro incrollabile impegno a garantire un futuro alle generazioni a venire. Il destino dell'istruzione superiore a Gaza appartiene alle università di Gaza, ai loro docenti, al personale e agli studenti e al popolo palestinese nel suo complesso. Apprezziamo gli sforzi dei popoli e dei cittadini di tutto il mondo per porre fine a questo genocidio in corso. Invitiamo i nostri colleghi in patria e a livello internazionale a sostenere i nostri risoluti tentativi di difendere e preservare le nostre università per il bene del futuro del nostro popolo e della nostra capacità di rimanere nella nostra terra di Palestina a Gaza. Abbiamo costruito queste università partendo dalle tende e dalle tende, con il sostegno dei nostri amici, le ricostruiremo ancora una volta. E con questa lettura doverosa, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 26 giugno, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. La la la la.